Il gastronauta di Davide Paolini. Cin cin, cari gastronauti, ebbene oggi non potremo altro che dire appunto cin cin, perché parleremo di spumante o champagne. Ebbene, è una scelta che si pone in queste giornate di festa, per questi pranzi, per questi brindisi. Allora noi andremo a vedere cosa succede sul mercato, quali sono le scelte, che cosa preferire. Bene, io so già che magari a questo punto qualcuno dalla Franciacorta mi avrebbe telefonato dicendo: guarda che noi non siamo spumanti, siamo Franciacorta. Ebbene, allora, spumante Franciacorta o champagne? Ecco, credo che così sia più corretto, diciamo che precedo qualche telefonata dagli amici produttori della Franciacorta. Allora, per discutere, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Magari diteci le vostre scelte, diteci perché scegliete lo spumante o il Franciacorta o lo champagne e magari, perché no, anche altre cose. Allora, noi cominciamo questa trasmissione con, diciamo, un produttore molto particolare, di un prodotto molto particolare, e inizio proprio da questa azienda, che è la Feudi di San Gregorio. Perché? Perché produce tre spumanti che si chiamano Double, e in realtà sono spumanti fatti con vitigni autoctoni campani, fatti da una nota azienda campana, ma con la mano di un grande champagnista. Buongiorno Antonio Capaldo, presidente di Feudi di San Gregorio. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Beh, io vorrei capire come mai, cioè questa mano francese rende questo prodotto più spumante o più champagne? Ma è difficile rispondere a questa domanda. Noi ci sentiamo comunque di fare uno spumante, però è chiaro che nel momento in cui abbiamo fatto questa scelta nel 2002 di lavorare sui nostri vitigni autoctoni con le bollicine, ci siamo rivolti a un personaggio che il fatto che fosse nella Champagne è un particolare, perché in realtà è un personaggio molto particolare anche per la Champagne, per cui è un vino con le bolle che noi sentiamo uno spumante italiano. Però chiaramente lui dalla Champagne ci ha portato alcuni protocolli di lavorazione che sono veramente tipici del mondo francese. Quindi diciamo che si sente più italiano questo prodotto, ma la cosa divertente è questa, che se uno non vuole scegliere tra Italia e la Francia, alla fine finisce per comprare Double, e così non fa una scelta, se chiamiamola così, nazionalistica. Ma volevo chiederti, ma quali sono i vitigni che sono stati usati, che quindi Selosse, perché questo è il nome dello champagnista, ha scelto per poter fare uno spumante? Sì, con Anselm Selosse abbiamo provato tutti i vitigni autoctoni, quindi siamo partiti dalla Falanghina, il Greco, il Fiano e l'Aglianico, e abbiamo provato anche varie cuvée. Ad oggi quelli che hanno risposto meglio, ed sono i tre prodotti con cui lavoriamo in questo momento, sono la Falanghina spumante, il Greco spumante, che sono due spumanti diciamo bianchi, e poi invece in rosato l'Aglianico rosé. Beh, fate mai delle comparazioni tra appunto lo champagne di Selosse e il vostro prodotto? Sì, lo facciamo spesso, facciamo anche spesso delle comparazioni tra i Franciacorta, come dicevi tu, e il nostro spumante. Devo dire che quello che è caratteristico e peculiare è che nel nostro prodotto emergono tutti i tratti caratteristici dei nostri vitigni autoctoni, quindi c'è una componente fruttata fortissima e floreale nella Falanghina, c'è la mineralità del Greco, c'è tutto la ricchezza gusto-olfattiva dell'Aglianico, perché noi non usiamo basi Chardonnay, basi Pinot come si fa nelle altre zone, e quindi questa è un po' la peculiarità anche con Anselm, questa è la differenza fondamentale che noi riscontriamo. Bene, io volevo già annunciare che fra poco avremo con noi anche il ministro Zai, il quale ha lanciato un messaggio appunto di consumare italiano, poi ne discuteremo sicuramente direttamente con il ministro. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Abbiamo con noi un sommelier che è diventato importante, perché ora ha vinto il campionato europeo. Buongiorno Luca Gardini. Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo. Luca, spumante o champagne? Secondo te, cioè, va a seconda delle occasioni, oppure proprio una scelta così, se vogliamo, di cuore, oppure anche di gusto? Beh, soprattutto di gusto. Io attualmente dico spumante, poi va anche a seconda delle occasioni. Sicuramente in questo periodo delle feste direi entrambi. Ecco, tu hai detto dico spumante, ma dici Franciacorta o spumante? Perché anche questo è importante, facciamo questo distinguo, perché no, se no succede la rivoluzione. No, io direi spumante, perché a Franciacorta certo è il cuore della spumantistica italiana, ma anche in altre zone italiane troviamo degli ottimi spumanti. Sentiamo Nicola da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Nicola. Sì, buongiorno. Mi dica. Quello che volevo dire io è questo qua. Io abito vicino alla Franciacorta, mi piace molto lo champagne e non riesco a trovare in Franciacorta al mio palato qualcosa che secondo me gli possa andare vicino. Secondo me il problema non sta tanto nel vitigno, in cui lo champagne sicuramente secondo me è superiore se parliamo di quel tipo di prodotto, ma sta nella serietà. Purtroppo abbiamo fatto gli italiani anche con la Franciacorta. Mentre lo champagne è una zona picchettata, ovvero comincia da una parte, finisce dall'altra e da lì non ti muovi, tra un po' la Franciacorta, non dico che arriva a Firenze, ma proprio si manca. Cioè, si è bene. Fatto gli italiani. Abbiamo capito, lei dice, cioè si è allargato l'area, insomma il successo ha portato questo bene, poi ne sentiremo perché abbiamo il presidente dei produttori della Franciacorta, le farò rispondere direttamente a lui. Grazie, io ringrazio Antonio Capaldo, volevo solo dire appunto di risposta a questo intervento che secondo me non si possono fare con paragoni, secondo me il Franciacorta o lo spumante italiano è una cosa e lo champagne è l'altro, quindi cominciamo a fare queste distinzioni e non mescoliamo le due cose, non cerchiamo di far comparazioni. Sarebbe come comparare il Barolo col Bordeaux. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di spumante, Franciacorta o champagne. Bene, abbiamo già sentito alcuni interventi, io lo ripeto, secondo me sono cose ben distinte, quindi mescolarle o dire mettiamole a confronto, confrontiamole, non è molto corretto. Questo poi lo dirò anche durante così il nostro collegamento con il ministro che ha lanciato questo slogan di consumare giustamente italiano. Ma io credo che sì, consumare italiano, però sicuramente non dire non bere champagne. Buongiorno al ministro Zaia. Buongiorno a tutti. Ministro, allora, champagne o spumante? Champagne o spumante o Franciacorta, perché c'è anche questo distinguo? Diciamo che per la prima volta nella storia mi tocca contraddirla. Non bevete champagne. Bene, io, ecco, lo so, ma so anche, io lo champagne lo bevo con la pizza, ma non con quella STG. Beh, insomma, cioè, l'importante è che si facciano le cose, consumare i prodotti dell'agricoltura è il nostro obiettivo. Le dirò, stavo proprio pensando, sai, di solito gli amici, le persone che ti conoscono a Natale ti regalano qualche bottiglia. Quest'anno ho raggiunto l'obiettivo, non ho visto una bottiglia di champagne, quindi direi che l'obiettivo è stato raggiunto. Beh, è un po' pericoloso però regalarle una bottiglia di champagne, visto la sua campagna, quindi credo che la gente si sia tenuta ben distante da questo. Beh, se prima abbiamo sentito Feudi di San Gregorio che produce uno spumante italiano, però fatto da uno champagnista, forse poteva essere una soluzione questa? Beh, potrebbe essere una soluzione, ma ricordiamo anche che lo champagne poi si riferisce allo champenoise, cioè a una modalità di ottenimento di questo vino spumante, definiamolo così, che è il nostro metodo classico. A me interessa ricordare che noi siamo dei grandi produttori, che abbiamo una produzione di bollicine molto variegata, che va dal Franciacorta al Prosecco, all'Asti Moscato piuttosto che all'Asti, insomma. Ne abbiamo per tutti i gusti, quindi cerchiamo di dare una mano ai nostri produttori. No, io sono d'accordo con lei su questo punto, però non sono molto d'accordo su chi mette assieme le cifre per dire abbiamo battuto i francesi mettendo tutto dentro alle bollicine contro il solo champagne. Ecco, io credo che queste statistiche forse dovrebbero essere fatte contro i produttori tedeschi, non contro, diciamo a confronto con i produttori tedeschi che hanno anche loro variegate bollicine, o contro quelli spagnoli, più che i francesi. Io credo che lo champagne sia una cosa diversa, perché il territorio, la storia, i vitigni molte volte sono diversi, quindi i confronti, ad esempio i confronti anche gustativi non sono corretti. Credo che lo spumante italiano o il Franciacorta siano adatti a certe occasioni, così pure lo champagne. Guardi, io mi permetto di fare una piccola considerazione, ma innanzitutto che i numeri li dicono i francesi, hanno dovuto contrarre la loro produzione nei prossimi anni di oltre il 40% perché i mercati non rispondono più. Abbiamo bollicine italiane, definiamoli così, spumanti italiani, che crescono anche quest'anno a due cifre, a differenza di un crollo verticale di champagne, ad esempio negli Stati Uniti, e mi permette di dire, la mia campagna vuole anche dire una cosa, che la stragrande maggioranza del consumo dello champagne in Italia avviene semplicemente perché fa figo, cioè è di moda. E quindi diciamo che invece fa figo e di moda consumare spumante italiano. Quest'anno io ringrazio tutte le radio che come voi, tutte le televisioni che hanno avuto le mie Magnum da 3 litri, ringrazio tutti i consorzi di tutela che me le hanno date, con scritto Brindo Italiano. Ma guardi, sentiamo Maurizio Zanella, che è presidente del consorzio di Franciacorta. Buongiorno Zanella. Buongiorno a tutti gli astronauti. Dimmi, hai sentito un po', diciamo, già gli argomenti? Sì, sentiti. Tu cosa ne pensi? Beh, penso che innanzitutto la campagna Brindare Italiano sia più che ragionevole, perché il consumo dello champagne spesso veniva fatto non per convinzione di quello che si beveva, ma per un'etichetta. E credo che quindi l'intuizione del ministro è strategicamente più che intelligente e doverosa. In Italia dobbiamo però riconoscere, e ti ringrazio per il distinguo su Franciacorta, che non si deve più parlare, usare questa parola che è obsoleta. Lo spumante è morto. Noi dobbiamo parlare di arti, di prosecco, come diceva poc'anzi il ministro, e soprattutto di Franciacorta, scusate se parlo della zona che rappresento. Non ha più senso generalizzare su una metodologia produttiva. Bene, sentiamo il ministro cosa ne pensa su questo. E condivido, anche perché l'etichetta, ringrazio ovviamente il consorzio della Franciacorta perché ha partecipato a questa iniziativa, e quasi 1000 magnum che distribuiremo a tutti e che vedrete visivamente in TV o sentiremo i tappi, io spero anche dal gastronauta, c'è scritto Brindo Italiano, e quindi è giusta questa filosofia. Quando si va in un enoteca o al ristorante si dice mi dia un Franciacorta, mi dia un prosecco, mi dia un asti. E questa è la nostra filosofia. Poi mi permetta di dire, diciamolo fino in fondo, abbiamo un sacco di consumatori non molto preparati in Italia rispetto allo champagne, e abbiamo qualitativamente una produzione dei nostri vini, delle nostre bollicine, che è di gran lunga superiore alla media della qualità degli champagne, cioè, perché comunque abbiamo i 2-3 mostri sacri nello champagne e poi il resto è noia, come dice qualcuno. Ma lei è d'accordo comunque che si comincia a distinguere anche sulle statistiche tra prosecco, tra Franciacorta, tra spumante metodo classico, tra spumante tout court, quindi cominciamo, diciamo, a fare questi distinguo? Ma guardi, io non ho nessun problema, tanto è vero che ho accolto anche l'istanza, lo devo dire fino in fondo, li ho già ringraziati in Franciacorta, di non dire, cioè l'idea iniziale era quella di dire spumante italiano, diciamo brindiamo italiano, brindo italiano, e quindi si faccia pure questa distinzione. La verità è che sono tutte bollicine, la verità è che sono tutti vini per la festa, per le celebrazioni, del momento di allegria, e la verità è che noi siamo i più forti del mondo. Sentiamo diciamo lo sommelier campione d'Europa che è con noi, Luca Gardini. Luca, hai sentito un po' questi distinguo, tu cosa ne pensi tra Franciacorta, tra spumante, tra prosecco, di cominciare a usare, diciamo, i loro nomi, non più tout court spumante? Secondo me è giustissimo. Poi, ritornando al fatto, come dicevi tu prima, che c'è la gente che viene al ristorante ancora chiede datemi una bollicina oppure datemi uno spumante, voglio prosecco, quindi è giusto differenziare per far capire l'importanza che ha ogni singolo prodotto, non andare a sminuire un prodotto, perché il prosecco è sia un prosecco perché viene da quella zona e ha la sua importanza. La Franciacorta è un'area che produce da sempre, ultimamente negli ultimi decenni, i più grandi, penso, a mio avviso, spumanti italiani, e esistono anche altri spumanti, in Altalanga, non dimentichiamoci la zona di Trento, nell'Oltre Papavese. Comunque devo dire, per quanto riguarda il consumatore italiano, ultimamente tende a bere più spumantistica italiana, quindi bollicina italiana, che bollicina francese, anche se, come dicevi tu prima, bisogna differenziare, cioè bevo Franciacorta perché voglio bere Franciacorta, o bevo spumante italiano perché voglio bere spumante italiano, bevo champagne, sono due cose differenti, anche se noi, secondo me, a mio avviso, di giorno abbiamo una varia gamma molto più nello standard di qualità rispetto allo champagne. Sì, perché gli stili sono diversi, inutile, cioè gli stili tra i vari, diciamo, le varie bollicine italiane sono diverse, e questo è il grande vantaggio, io credo, ministro, rispetto alla Francia, che noi abbiamo stili diversi, appunto, tra prosecco, tra spumanti di territori diversi, sicuramente è il Franciacorta, quindi abbiamo una collezione che è sicuramente molto più interessante di quella francese. Proprio di sì, anche perché noi abbiamo delle identità produttive territoriali, come li chiamava Veronelli, dei giacimenti gastronomici in generale, se lui diceva, no? Ma la verità qual è? La verità è che noi abbiamo 318 DOC, 42 di OCG e 116. E proprio questi numeri ci fanno capire che dietro ad ogni campanile c'è una produzione. Chiamarlo Franciacorta di OCG, chiamarlo Prosecco di OCG o così via, significa mettere il nome dei territori, dei disciplinari, perché poi ricordiamoci che poi i produttori che sono stati molto avveduti hanno voluto identificare i loro vini con questi nomi all'interno già dei disciplinari. Poi mi permetto di dire, l'identità produttiva c'è anche tra gli champagne, perché ce ne sono ovviamente di molte produzioni, saranno tutte della stessa zona, ma ci sono degli estremi a volte da uno champagne all'altro, per cui io continuo a dire che lì non c'è standard qualitativo, non c'è assolutamente standard qualitativo negli champagne. Zanella, quanto mi risulta negli ultimi due mesi comunque gli champagne hanno recuperato moltissimo di quello che avevano perso, a te risulta questo? Sì, mi risulta e credo che siano in forte recupero, con, parlo di mondo, con un calo previsto intorno, credo, al 15%. Ma il fatto delle quantità, su questo mi permetto di dissentire col Ministro, non vuol dire, in un momento soprattutto contingente come questo, che una produzione sia in crisi. Io invece sono assolutamente d'accordo sulla diversificazione che l'Italia può dare. Noi abbiamo una tavolozza piena di colori, con sfumature diverse, ognuno con le sue caratteristiche. Dico poi la mia, un disciplinare rigido e unico come quello del Franciacorta, che è il più determinato al mondo come tempi e come rese per ettaro la vigna, ed è il più severo, non ce l'ha nessuno, e quindi ognuno si distingue per quello che desidera fare. L'Italia in questo ha un vantaggio enorme rispetto agli altri paesi, e mi permetto di ricordare all'amico di Brescia, visto che mi hai detto che avrei dovuto rispondere, che è bene che venga a trovarci per capire che la Franciacorta non si è allargata ma si è stretta. Bene, io do così l'ultima parola al Ministro, nel senso del consumare italiano, visto che io l'ultimo dell'anno non sarò in onda, quindi non potrò stappare in radio il Magnum o una bottiglia di Franciacorta di spumante, e così consumare italiano lo faccio dire a lei. Direi sì, noi abbiamo questa iniziativa, un invito a tutti i cittadini di consumare i prodotti del territorio, i prodotti della stagionalità. L'anno scorso io ho lanciato lo sciopero dell'ananas e c'è stato un crollo dell'ananas, della frutta tropicale. In generale dico una cosa, si è appena chiuso il vertice di Copenaghen, ricordo che i cibi per arrivare sulle nostre tavole fanno 2500 km di media, quindi inquiniamo di meno, rispettiamo l'ambiente e diamo una mano ai nostri agricoltori che sono in grosse difficoltà. Bene, io ringrazio il Ministro Zaia, ringrazio Maurizio Zanella e Luca Gardini, e sento ora un radioascoltatore che è tanto in linea, Matteo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, Matteo Fongaro da Verona. Ecco, io volevo far presente che c'è anche un altro vitigno autoctono su cui adesso noi ci stiamo muovendo e lo vogliamo far conoscere come metodo classico, che è la Durella, uva Durella e quindi il vino Durello. Io sono un produttore di metodo classico e sto portando avanti il lavoro del nonno, che ha iniziato nell'85 a spumantizzarla, e stiamo avendo anche noi un ottimo risultato, anche perché come caratteristica, a differenza di tutte le altre bollicine, la freschezza e la pulizia. Quindi diciamo che anche se piccola realtà, anche noi tra Verona e Vicenza ci stiamo muovendo col nostro bollicine autoctono. Bene, la ringrazio Matteo. Il gastronauta. E come abbiamo sentito, questo interrogativo spumante, Franciacorta o champagne, interrogativo fa veramente molto discutere. Ora abbiamo lasciato molto spazio, diciamo, all'italianità, ma ora sentiremo anche la voce dello champagne. Devo dire che peccato che il Ministro, appunto, forse non riusciremo più a raggiungerlo, ma io ho avuto, mentre stavamo parlando e subito dopo, 15 o 20 sms molto molto forti. Zaia è bravo, però non dica il resto è noia, rivolto allo champagne, e alla, diciamo, all'osservazione che non c'è diversificazione, risponde un radioascoltatore: i vari cremani, il claret, la blanchette, non sono diversificazione? E poi ancora, chiede al ministro se negli altri stati facessero come noi, dove le mettiamo tutte le nostre bollicine. E poi ancora, Zaia non ha idea che nello champagne c'è il gesso che caratterizza la mineralità dello champagne. E poi ancora, questa secondo me è una battuta che non ha senso, perché Zaia si dovrebbe occupare di tutto quelle con le politiche agricole. Un radioascoltatore scrive: Zaia dovrebbe occuparsi di radicchio, il vino non lo competo. Invece lo compete come? Perché le politiche agricole sicuramente si occupano anche di viticoltura, quindi non credo che non se ne debba occupare. Poi non si parla mai del Cartizze, che non è prosecco ed è più buono al mondo. Parlatene e provatelo, grazie. Vabbè, sì, lo conosciamo. Lo champagne, mille volte meglio, non scherziamo, questo è ottuso provincialismo. E quindi, come vedete, sicuramente ci sono delle campane. In Italia è ovvio, ci sono dei grandi appassionati di champagne. Basta dire che Krug, fino all'anno scorso, il primo mercato mondiale era l'Italia, ora è il secondo mercato mondiale, Dom Perignon è il terzo. Quindi sicuramente ci sono gli appassionati anche di champagne. Ma ora, appunto, andiamo da colui che rappresenta lo champagne in Italia, che è Domenico Avoglio, che è direttore del Centro Champagne Italia. Buongiorno Avoglio. Buongiorno a lei, buongiorno ai gastronauti. Ha sentito la trasmissione prima? Sì, sì, ho seguito tutto. Ecco, volevo chiedere solo questo, a proposito, perché si parla sempre di cifre, in Italia c'è questa mania di questi dati, insomma, che poi sono dati in quantità, e questo che mi fa anche così un po' lasciare perplesso, mai nessuno parla di dati in valore, sempre quantitativi, mentre in valore forse hanno molto più senso. È vero che negli ultimi mesi lo champagne, che aveva avuto una grande batosta nella prima parte dell'anno, sta recuperando? Ma guardi, gli ultimi dati di cui disponiamo sono quelli alla fine di luglio, sono dati che riguardano le spedizioni a livello globale e parlano di un meno 19,6%. Quindi non avete dati aggiornati a ottobre, per esempio? No, perché sono dati che vengono rilasciati con un certo ritardo, perché vengono raccolte le dichiarazioni di tutti gli operatori della filiera. Però, per darle un elemento di paragone, in aprile eravamo a meno 25, quindi effettivamente siamo in una fase di ripresa. E sull'Italia come siete messi? Sull'Italia il dato non è ancora disponibile, ma naturalmente anche l'Italia avrà risentito di questo fenomeno. Io ricordo soltanto che questa non è la crisi dello champagne, è una crisi globale. Lo champagne esporta circa la metà del proprio prodotto in circa 180 paesi, e quindi con un'esposizione di questo tipo non si poteva immaginare che questa crisi del 2009 non lo toccasse. Rimanga con noi, numero verde 800 24 00 24, intervenite. Champagne o spumante o Franciacorta, numero verde appunto, e sms 349 238 6666. Sentiamo un radioascoltatore, Paolo da Brescia. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Mi dica. Ma io direi che sostengo la campagna di Zaia. Io ho vissuto negli Stati Uniti circa 5 anni e devo dire che anche là è molto normale che si promuovano i prodotti americani negli Stati Uniti, così come in Francia promuovono i prodotti francesi e in Germania promuovono i prodotti tedeschi. Io dico finalmente qualcuno che sta sostenendo i prodotti italiani, se non altro in Italia. Poi le differenziazioni è ovvio che ci sono, i gusti sono diversi, ognuno ha i propri gusti, cioè di mezzo non dimentichiamoci anche il marketing. Lo champagne è stato molto bravo nel costruire un'immagine con il marketing, però credo che insomma anche noi italiani ci stiamo muovendo. D'accordo, lei è d'accordo. Donato da Brescia, da Pescara, un altro radioascoltatore. Buongiorno Donato. Buongiorno. No, senta, io devo dire solo un mio parere sulla differenza tra champagne e spumante, che secondo me è questo: mentre lo champagne, per esempio soprattutto il rosé, si presta all'invecchiamento in cantina, e uno può bere anche dopo 10-15 anni tenuto bene in cantina, invece lo spumante non regge a questo tipo di invecchiamento. Ho capito, quindi lei, questa è la differenza. Grazie Donato da Pescara. Poi sentiremo, abbiamo con noi Roberto Bellini, che è l'ambasciatore dello champagne in Italia, è un sommelier, quindi sentiremo da lui. Però devo leggere, perché io ho letto prima i primi 20 che mi sono arrivati, ma ora mi stanno arrivando tantissimi altri sms, e diciamo invece che sono favorevoli alla Zaia. Bravissimo Zaia, ottima politica agricola verso il mondo, meglio dei nostri prodotti non ce n'è. e poi ancora beh, molti sul Cartizze. Vedo che arrivano moltissimi fans del Cartizze. Bene, il Cartizze, diciamo che io lo intendevo, cioè non è che si possono nominare poi anche tutte le denominazioni che hanno le bollicine, quindi sicuramente il Cartizze, che fa parte dell'area del Prosecco, sicuramente è un grandissimo prodotto, ma se ne produce sempre meno, e questo è bene dirlo. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Siete favorevoli al champagne o allo spumante italiano, oppure anche alla politica e alla campagna che sta facendo Zaia? Perché mi sembra che tra gli SMS stia prendendo consistenza proprio questo argomento. Buongiorno a Roberto Bellini. Buongiorno qua, Davide, buongiorno a tutti. Bellini, ma abbiamo sentito che si dice che non c'è diversificazione, che non c'è differenziazione nello champagne. Tu cosa ne pensi? Ma insomma, io credo che per quanto riguarda questa sempre diatriba fra spumante, Franciacorta o altri prodotti con dei bollicini italiani, lo champagne, insomma, debba finire, perché c'è una diversità di storia, c'è una diversità di tradizioni, c'è una diversità di sistema di produzione che ha un know-how lungo 300 anni, quindi non è una cosa da comparare, secondo me. È giusto brindare italiano, oppure uno non brinda con champagne, brinda con l'acqua di Reims, che è un'altra cosa. Bene, rimani con noi Gianni da Milano, un altro radioascoltatore. Buongiorno Gianni. Buongiorno, complimenti per la bella trasmissione che state facendo. Io sono un estremo difensore del prodotto italiano in generale, anche perché girando per il mondo ho visto che appena si parla di Made in Italy serio, il vero è il prodotto italiano, tanto di cappello, ed è veramente ancora meglio da valorizzare tutto quello che noi abbiamo, e che secondo me noi italiani abbiamo anche sempre il difetto di essere autolesionisti. Sono completamente d'accordo sul discorso degli spumanti italiani. È chiaro che lo spumante lo devi bere non invecchiandolo, lo devi bere in quell'anno, al massimo l'anno dopo. Io non posso fare pubblicità di quali prodotti bevo volentieri tra i tanti. Beh, dica appunto Italia, ma si è già capito che lei beve italiano, quindi non è che non faccia pubblicità, va benissimo così Gianni, sicuramente è una scelta, quindi è giusto che anche lei appunto dica beviamo italiano, per carità. Io però voglio leggere un SMS con cui sono completamente d'accordo: la promozione andrebbe fatta all'estero. Ecco, questo è un SMS che mi trova completamente d'accordo, perché veramente all'estero non facciamo politiche di promozione serie, e metto tra virgolette serie, perché si buttano veramente tanti soldi, specialmente dagli enti locali, regioni, province, comuni, che arrivano in massa nello stesso posto, ripetono le stesse cose, magari dove non si possono esportare quei prodotti. Sentiamo Lorenzo da Milano. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Mi dica. Niente, ho sentito prima il nostro ministro Zaia. Sì. Io capisco tutto, capisco che deve sponsorizzare e deve portare avanti i nostri prodotti, ci mancherebbe altro. Il fatto che parli così dello champagne, dico una forzatura, secondo me è scandaloso. Non si può dire che lo champagne, tutto quello che ha detto lui, lo champagne è nettamente superiore ai nostri Franciacorta, cioè anche il prezzo è superiore, poi alla fine anche il prezzo è superiore, però dire che lo champagne non è qualitativamente come il Franciacorta mi sembra veramente una portatura. Ho assaggiato recentemente un Jacquesson, un piccolo produttore francese, ma non esiste niente che sia paragonabile a una cosa del genere. Mi sembra troppo semplicistico dire sì, facciamo pubblicità al nostro prodotto, ok, ma lo champagne, ragazzi, per chi se ne intende quello, secondo me bene, abbiamo capito. Però io ritorno a dire che sicuramente sono due prodotti diversi, e fare i confronti secondo me non è molto corretto, che se ne dica. Ritengo che siano due prodotti diversi, anche quelli fatti col metodo classico da un lato e quelli con lo champenoise, col metodo champenoise, quindi Italia-Francia, sono due stili diversi, sono due storie diverse, quindi vanno interpretati in maniera diversa. Grazie a Lorenzo da Milano e grazie a Roberto Bellini, a cui chiedo una cosa velocissima, ma Bellini, scusami, volevo chiederti, ti ho chiesto della diversificazione, se esiste o non esiste, ma tu sei d'accordo che non si possono fare confronti? Assolutamente sì, è improponibile un confronto fra lo champagne e le altre identità spumantistiche, non solo italiane ma anche mondiali. la Franciacorta deve, ha una sua identità, fortunatamente se l'è creata in questi ultimi anni grazie anche al lavoro di Maurizio Zanella ultimamente, e il Trento dovrà, ha una, deve raggiungere una propria identità, e l'identità è fondamentale perché non si vende solo il vino, si vende il territorio, la cultura e quindi bene, si vende il savoir-faire. Grazie a Roberto Bellini, grazie a Domenico Voglio. Il gastronauta. Mi verrebbe da dire stiamo parlando di Italia contro Francia, ma non è proprio esattamente così. Voglio leggere un SMS indirizzato al ministro Zaia, che dice arriva dall'Aquila. Profonda stima al ministro, venga al più presto all'Aquila, abbiamo urgente bisogno di lei. Quindi questo è un messaggio di un cittadino, ma probabilmente di un agricoltore. Sentiamo Guido dalla provincia di Rieti, un radioascoltatore. Buongiorno Guido. Sì, pronto. Buongiorno, io volevo soltanto portare il mio apporto, diciamo, alla discussione, visto che ho lavorato per un piccolo distributore di prodotti, diciamo, di spumanti, e più che altro volevo distinguere la destinazione, diciamo, sul consumo, perché oggi il prosecco, diciamo, i grandi volumi si fanno con l'aperitivo nei bar, mentre lo champagne magari viene utilizzato proprio per fare il regalo. Infatti nella discussione volevo dire, sarebbe importante portare anche la cultura, diciamo, dello spumante italiano, perché spesso il consumatore non sa la differenza fra un'indicazione geografica tipica, un DOC, un extra dry e via discorrendo, insomma. E tantomeno sa cos'è l'STG. Bene, grazie Guido dalla provincia di Rieti, ma abbiamo con noi Matteo Lunelli che rappresenta il Trento Classico Ferrari, e voglio chiedere, abbiamo sentito appunto le destinazioni d'uso che ci ha dato Guido di mercato, vorrei chiedere a questa grande, appunto, che rappresenta una grande casa spumantistica, se ha sentito innanzitutto, diciamo, le discussioni precedenti, e se così ci dice dove va, diciamo, sul mercato lo spumante classico trentino. Buongiorno a tutti, ho sentito tutta la conversazione, assolutamente, io riallacciandomi a prima dico brindiamo italiano con il ministro. Credo che forse, ecco, nella conversazione sia mancato un po' all'appello un territorio che è il Trentino, e quindi il Trento DOC. Ma io appunto, lei rappresenta questo, quindi... Assolutamente, quindi anche perché il Trento DOC tutto sommato rappresenta così la storia da oltre 100 anni delle bollicine metodo classico italiana, e qua, oggi parlando di esportazioni, ad esempio metà delle esportazioni di metodo classico italiano, quindi un territorio che ha una sua vocazione. Il Trento DOC, un Ferrari come destinazione di consumo, beh, oggi sempre di più secondo me le bollicine di qualità dagli italiani non sono consumate nelle feste, ma non solo, cioè sono sempre di più anche apprezzate nell'aperitivo e anche come un grande vino da degustare a tutto pasto. Io credo che questa consapevolezza sia stato un grande cambiamento negli ultimi anni, perché prima le bollicine metodo classico come un Trento DOC era relegato magari solo alle celebrazioni, oggi sempre di più lo si gusta o lo si apprezza anche ad esempio passeggiando. Senta, lei pensa che sia possibile, cioè sentiamo appunto questi confronti tra champagne e spumanti italiani in metodo classico, lei pensa che sia corretto fare questi confronti? Ma io non del tutto, nel senso che sono da una parte, ripeto, secondo me è giusto che anche ci sia un apprezzamento, una predilezione per quello che è che sono le bollicine italiane, dall'altro io parlo di differenza, io credo che un grande vino deve rappresentare il suo territorio. Soldati che diceva che un vino è la poesia della sua terra, e quindi credo che una bollicina italiana deve rappresentare il suo territorio. Nel caso nostro, come Ferrari, siamo un Trento DOC, vorremmo raccontare il nostro territorio trentino e le sue caratteristiche, quindi io parlo di differenze di stili e di personalità. Ci sono dei grandi champagne che raccontano la Champagne, noi siamo come Ferrari un Trento DOC e vogliamo raccontare il Trentino, altri territori in Italia esprimono eccellenze. Credo che lo slogan Brindiamo Italiano sia anche un voler dire che, insomma, tutto sommato in Italia ci sono tanti territori, tante aziende che fanno grande qualità, e quindi credo che ci siano delle bollicine italiane che possano accompagnare con grande soddisfazione i brindisi degli italiani. Quindi parliamo di identità, giustamente, come lei ha fatto notare. Sentiamo Roberto da Monza, radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Buongiorno Paolini. Io dico una cosa, a mio avviso la Franciacorta lavora molto bene e fa dei vini forse più superiori dei francesi, però ahimè noi abbiamo un difetto, lei sa benissimo che per vendere nel mondo i francesi rispetto a noi hanno una sola fortuna, hanno la loro lingua, perché senta champagne si riempie la bocca, vabbè. Invece noi vendiamo azienda agricola, loro hanno i chateau, Ecco, la loro fortuna è la lingua, purtroppo. Bene, grazie Roberto da Monza di questa annotazione. Abbiamo con noi anche un importatore che conosce molto bene il mercato italiano, che è Giuseppe Mongiardino. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Faccio anche a te la stessa domanda, ma si possono fare i confronti o sono due stili, due mondi diversi, champagne e i vari spumanti italiani, che siano Trento Classico, che siano Franciacorta, che siano spumanti tout court? Beh, devo ripetere tutto quello che hanno detto i tuoi invitati prima, sono paragoni da assolutamente non fare. Però se mi permette volevo aggiungere due paroline. Certo. Sull'autarchia quarantennale dei ministri. I ministri cambiano, ma la campagna natalizia pubblicitaria italiana esiste sempre. Ho sentito dire alcune cose da brividi, tipo ci sono due o tre grandi champagne e il resto è noia. Io inviterei il ministro in macchina con me, senza usare aerei di Stato, a fare un giro in Champagne. Lo accompagno nelle 5.000 aziende, ne faremo qualcuno di meno, e vedrà le diversità del territorio, del produttore, del clima, del microclima, del terroir, eccetera, eccetera. Poi mi parla di inquinamento. Inquinamento sul trasporto dello champagne sarebbe proprio il più vicino di casa. Io starei più attento ai pesci del Mekong o alle patate cinesi, se dobbiamo parlare di inquinamento. O sbaglio? No, io sono d'accordo anche su un altro lato, che probabilmente, cioè, va bene dire consumare italiano, però se in Francia dicessero consumare formaggi italiani, io vorrei vedere le reazioni del grana padano, del parmigiano reggiano, della mozzarella, del gorgonzola. Insomma, è una strada che sicuramente si può lanciare, però bisogna aspettarsi anche delle reazioni, bisogna vedere cosa conviene di più. E credo che dal punto di vista politico sia il caso di fare delle somme e poi tirare delle conclusioni. Sentiamo Michele da Padova, un radioascoltatore. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Brevemente volevo semplicemente avere un consiglio e un'informazione. Io sono un consumatore e bevo abbastanza, voglio dire, questi spumanti, e ho provato sia nel tempo, nel corso degli anni, sia, non so se posso dire il nome, il Ferrari di Trento, che è un ottimo spumante, comunque metodo classico, uno spumante metodo classico, sì. In realtà in alcuni anni è stato veramente pregevole, perché dopo qualche ora effettivamente ancora si sentiva il piacere di averlo bevuto. Anni dopo invece in realtà veniva una sorta di piccolo mal di testa. No, beh, guardi, fermiamoci, perché diciamo che queste cose possono venire da tantissime cose, vero Matteo? Appunto. Noi facciamo qualità, diciamo che la qualità di Ferrari ha 100 anni di storia, la nostra cultura, la nostra filosofia credo non sia cambiata nel tempo, anzi. Sì, infatti questi mal di testa che ogni tanto arrivano a molte persone che bevono, poi danno sempre la colpa al vino, bisogna vedere cosa hanno mangiato prima, cosa stanno mangiando, se hanno bevuto anche poi dei superalcolici. Insomma, io credo che siano tante e varie, non si può così colpevolizzare sicuramente se non si è sicuri un prodotto o un vino. E ora diamo la linea a Stefano Gallarini con Il riposo del guerriero.